bastano mi chiedere se sei ancora una ex. Tu sei solo una ex. Hey, bastano mi chiedere quanto vali per me. Tu sei solo una ex. Hey, basta non rispondere, non c'è spazio per te. Tu sei solo una ex. È stato solo un gioco, ti sei divertita con poco, il tempo che è bastato a spegnere sto fuoco. Tu regina del tuo mondo ignoto, a me rimane il vuoto e qualche ricordo sopra qualche foto. Tu dicevi colpa del carattere diverso e ovviamente io la colpa di essere me stesso, già. E non pensavi che adesso la tua storia con un altro non è quella che cercavi. Tu sapevi ciò che non volevi, pestavi i piedi, io chilometri per te, oh milady. Io ti davo il mio punto di vista, tu troppo femminista, mandavi il mio orgoglio fuori pista. Io ti provocavo, dopo ti cercavo, a volte ti chiamavo ma niente, non ti trovavo. Diverse concezioni d'affetto, tu ci sentiamo dopo, io invece ho voglia di sentirti adesso. Ma il tempo cambia le cose e non servono rose, le tue spine non sono più pericoloso e no, ritorno ad essere io. Riprendo ciò che mi aspettavo un tempo perché adesso è tutto mio. Un altro segno sul muro, un altro segno sul cuore. Forse troppi problemi, forse poche parole. Ma sono il solito randagio, sì. E ti lavo via con l'acqua come un finto tatuaggio. Ehi, basta non mi chiedere se c'è spazio per te. Tu sei solo una ex. Tu presa dagli impegni e progetti di viaggio, io sempre dietro un sogno che sembra un miraggio. Tu sveglia già l'alba, pronta per la giornata, io invece sveglio fino all'alba dopo una serata. Tu donna matura, rinchiusa nel tuo privé, convinta che il mondo giri tutto su te. I miei sacrifici, i nostri litigi, il tuo darmi contro e dare addosso ai miei amici, il tuo lamentarti perché il film non ti è piaciuto, le volte che mi hai dato buco all'ultimo minuto. Stare a sopportare i tuoi momenti e i tuoi silenzi, poi dirmi l'opposto di tutto quello che pensi e darmi la colpa perché io non ti ascolto. Io sono lo stronzo, cambio sempre discorso. Le lettere che hai scritto per tenermi vicino adesso riempiono lo spazio vuoto nel mio cestino. E mentre tu sei lontana io già mi sento migliore, sono più leggero senza questo peso sul cuore. Tu dicevi che non ero un libro aperto, no, che sono freddo, che a me non mi si legge dentro. E pazienza, probabilmente tu non eri la persona a cui concedere fiducia e confidenza. Accuso il colpo ma va bene lo stesso, rimarrò da solo col mio orgoglio chiuso in me stesso. Ehi, basta non mi chiedere quanto vali per me. Tu sei solo una ex. Ehi, basta non rispondere, non c'è spazio per te. Tu sei solo una ex. E adesso che a distanza di tempo hai capito dove sbagliavi, mi hanno detto che era un po' che mi cercavi. Ti rivedo dopo anni e quasi non ti riconosco, e sorridendo chiedi se sto a posto. Vuoi parlarmi? Tranquilla te lo concedo. Prima o poi sapevo che saresti tornata indietro, e tu vorresti riprovare ancora con me. Ma il fatto è che purtroppo io non provo niente per te. Certi tagli ti rimangono, certe ferite bruciano, ed altre ancora oggi non si chiudono. Ancora mastico amarezza, ma una cagna come te non merita più una mia carezza. Io non sono un tipo preciso, puntuale da Dio, e quindi di preciso non so come darti un addio. Ciao, ricorda queste cinque dita, cancella questa faccia perché ormai sei fuori dalla mia vita. Ho provato a spiegarti, ci ho provato davvero, e prima di tutto sono stato sincero. Ad ogni parola speravo un confronto, ma niente, non lotto con te che sei